Ma le lettere del Corvo sono solo un'anteprima di quello che accade il 20 giugno del 1989. Sugli scogli di fronte alla villa che il magistrato affitta durante l'estate alla Daura viene rinvenuta una borsa. Contiene 58 candelotti di dinamite. Su quegli stessi scogli con Falcone dovevano esserci due magistrati svizzeri venuti in Sicilia per rogatori internazionali sul narcotraffico, Carla Del Ponte e Clau Lehmann. Ce lo racconta lo stesso Falcone nella trasmissione Magistrati di frontiera di Alfonso Madeo nel 1991. Avevo detto loro la sera precedente che ci saremmo recati a mare nell'intervallo del pranzo, la mattina e il pomeriggio, se non che poi per motivi imprevisti, dovuti soprattutto al protrarsi del nostro lavoro nella mattinata, non fu più possibile andare. Chi poteva sapere che Falcone aveva invitato i due colleghi per una nuotata poi annullata? Ancora Francesco Lalicata. Nel più classico dei canovacci delle sceneggiature palermitane venne fuori il pettegolezzo che Falcone si era, come dire, fatto da solo questo attentato. Perché? Perché essendo in corsa per la poltrona di procuratore aggiunto di Palermo, con questo espediente, dicevano questi pettegolezzi, si garantiva una marcia in più per arrivare a questo obiettivo. Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere. Così parlava Falcone intervistato da Corrado Augias nel 1992. Ascoltiamo ancora i magistrati Giuseppe Ayala e Mario Almerighi. Falcone ritenne che doveva reagire a tutto questo e rilasciò un'intervista pochi giorni dopo, fine giugno sarà stato, in cui parlò di menti raffinatissime e di centri occulti di potere capaci di orientare anche le scelte di Cosa Nostra, e definì questo lo scenario dentro il quale era maturato il tentativo, per fortuna quella volta fu solo tentativo, di ucciderlo. La frase "devo conoscere i miei nemici politici per difendermi dalla mafia", che cosa voleva dire? Voleva dire ci sono degli esponenti politici che colludono con la mafia, più chiaro di così credo non potesse essere. C'è la frase tremenda che mi disse in quell'occasione, che mi è rimasta impressa per sempre nella mia mente, quando mi disse: "Non lo capisci Maria, io ormai sono un cadavere ambulante". Avete sentito Maria, sorella di Giovanni Falcone. Già nell'89 dunque il magistrato si sente un cadavere ambulante, un obiettivo inevitabile e rinunciabile per la mafia. Non solo. Falcone sostiene di dover conoscere i suoi nemici politici per difendersi dalla mafia. Una vera e propria dichiarazione di collusione tra esponenti politici e mafia. Ma quello della Daura è un mistero senza fine. Le nuove indagini della procura di Caltanissetta, infatti, hanno portato a clamorose e inquietanti rivelazioni. Le indagini portano alla scoperta di due uomini, Emanuele Piazza e Nino Agostino. L'uno collaboratore dei servizi segreti, l'altro agente di polizia. I due, il giorno dell'attentato al giudice Falcone, si sarebbero trovati alla Daura e avrebbero salvato la vita al magistrato. Entrambi scompariranno presto, misteriosamente. Ce ne parla il magistrato Sergio Lari. Dalle indagini è emerso che Agostino e Piazza sono stati uccisi perché in qualche modo hanno avuto un ruolo per evitare che l'attentato della Daura venisse portato a compimento con l'uccisione del giudice Falcone. La pista che stiamo seguendo è quella di due soggetti che si erano infiltrati all'interno dell'organizzazione mafiosa nel tentativo di ottenere informazioni utili per lo Stato, ma che poi, venuto a sapere di questo progetto di attentato, in qualche modo sono intervenuti per impedirlo. E questo ha creato le condizioni perché Cosa Nostra ne decretasse l'uccisione. Nemmeno due mesi dopo il fallito attentato alla Daura, Nino Agostino viene ucciso con la moglie incinta. E nel marzo del 90 Emanuele Piazza viene strangolato e sciolto nell'acido. E la vendetta che Cosa Nostra escogita contro Piazza e Agostino per aver impedito l'attentato a Falcone? Queste le dichiarazioni del padre di Emanuele, Vincenzo Agostino. Giovanni Falcone è venuto ai funerali

Il Parlamento è in stallo, non si riesce ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e quindi nemmeno a formare il governo. Colpiscono le note dell'Agenzia Repubblica che così dicono. C'è da temere a questo punto che qualcuno rispolveri la tentazione tipicamente nazionale al colpo grosso. Nella seconda, il 22 maggio, ancora si legge. I partiti, senza una strategia della tensione che piazzi un bel botto esterno come ai tempi di Moro, a giustificazione di un voto d'emergenza, non potrebbero accettare di autodelegittimarsi. Doveva arrivare a Palermo la sera prima, ma aveva aspettato Francesca e mi ha detto invece non sarò il venerdì sera a casa, ma verrò sabato. Non l'abbiamo visto più. Emanuela Giordano, regista e drammaturga dello spettacolo 10 storie proprio così, in scena il 23 maggio al Teatro Massimo di Palermo, nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci. Emanuela, di che storie si tratta? Queste 10 storie proprio così sono storie vere, ma non sono in realtà un decalogo che raccoglie tantissime esperienze vissute in questi anni. Sono storie di dolore, di grande dolore, perché sono raccontate, sono state raccolte dalle vittime della criminalità organizzata, di qualche giornalisti, nome? Beh, Siani per esempio, tanto per dirne uno, Giancarlo Siani. E la storia mi è stata raccontata da Paolo Siani, ma ce ne sono tantissimi. Qual è l'intento di questo progetto? Ecco, accanto alle storie di dolore, sono diventate un coro, una coralità, un affresco di testimonianze, ci sono molte storie di riscatto, che vuol dire storie di persone che hanno preso in carico la propria esistenza, hanno scelto coraggiosamente di trasformare per esempio terre confiscate alla mafia, o palazzi, o beni confiscati alla mafia e farli diventare altro. Ma da dove nasce questo progetto per la legalità, quindi? Sì, è un progetto sulla legalità che è articolato tra l'altro in carcere, nei carceri minorili, nelle scuole e in teatro, quindi unisce questi tre elementi fondamentali, cioè dare la possibilità ai ragazzi che hanno sbagliato di riflettere e di avere attraverso anche il teatro la possibilità di accedere a nuove professioni, anche professioni come l'elettricista o il tecnico, il macchinista, e far conoscere a fondo le storie del nostro paese nelle scuole per approdare poi in teatro. È nato da un progetto del Teatro San Carlo di Napoli e ha subito avuto un grossissimo impatto sulla popolazione, sulle scuole, nelle scuole, per cui da lì lo spettacolo si è trasformato in vero e proprio progetto nazionale e adesso approderemo appunto al Teatro Massimo di Palermo. Ecco, appunto, sbarca in Sicilia quindi. Sbarca in Sicilia con tutte le scuole, grazie anche alla Fondazione Falcone ovviamente, proprio in questo giorno così importante, che è un appuntamento ormai diventato cultura sociale, cultura sociale della storia del paese, e saremo lì, e anche se la storia di Falcone non è raccontata, perché forse è una delle storie più importanti, con quella di Borsellino, forse più strutturate diciamo narrativamente e giornalisticamente, in realtà è a loro dedicata, tant'è che alla fine lo spettacolo compare un grande disegno con Falcone e Borsellino, e tutti, anche gli attori, si rivolgono verso questo disegno come se fosse comunque un simbolo, un futuro che noi dobbiamo raccogliere, la capacità di raccogliere la memoria di persone che hanno saputo combattere con grande coraggio e con grande lealtà e intelligenza per questo paese. Quindi è a loro che noi ci rivolgiamo, come se fossero dei padri ideali. Ecco, Emanuela Giordano, quindi l'appuntamento è per... sabato? E per sabato 23 maggio, Teatro Massimo di Palermo alle ore 12, con 10 storie proprio così. Grazie. Grazie a voi.